Sofonia. Parola del Signore a Sofonia, figlio di Cusci, figlio di Godolia, figlio di Amaria, figlio di Ezechia, al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Sì, sopprimerò tutto dalla faccia della terra. Oracolo del Signore. Raccoglierò uomini e animali. Raccoglierò gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Farò inciampare gli empi e cancellerò l'uomo dalla faccia della terra. Oracolo del Signore. Stenderò la mia mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme. Cancellerò da questo luogo perfino i resti di Baal, il nome degli inservienti insieme ai sacerdoti. Coloro che si prostrano sui tetti davanti all'esercito del cielo, coloro che si prostrano davanti al Signore e giurano per Milcom, coloro che si allontanano dal Signore non lo cercano né se ne interessano. Silenzio davanti al Signore Dio, perché è vicino il giorno del Signore. Il Signore ha preparato un sacrificio, ha santificato i Suoi invitati. Nel giorno del sacrificio del Signore visiterò tutti i principi, i figli del re e quanti vestono alla moda straniera. Visiterò tutti coloro che salgono al soglio del re, che riempiono il palazzo del loro signore di violenza e di menzogna. In quel giorno, oracolo del Signore, un clamore si eleverà dalla porta dei pesci, urla dal quartiere nuovo, grande frastuono dai colli, urla degli abitanti del mortaio. È annientata tutta la gente di Canaan. Sono cancellati tutti i pesatori d'argento. In quel tempo frugherò Gerusalemme con le lampade. Visiterò gli spensierati, coloro che si abbandonano alle crapule, coloro che pensano nel proprio cuore. Il Signore non può farci né bene né male. I loro beni saranno saccheggiati e le loro case distrutte. Costruiranno case, ma senza abitarle. Pianteranno vigne, ma senza berne il vino. È vicino il gran giorno del Signore. È vicino e arriva in gran fretta. Grido amaro del giorno del Signore. Un guerriero che leva il grido di guerra. Giorno di collera, quel giorno. Giorno di angustia e di tribolazione. Giorno di turbine e tempesta. Giorno di tenebre e caligine. Giorno di nubi e di oscurità. Giorno di squilli e grida di battaglia sulle città fortificate e sulle torrette d'angolo elevate. Io li ridurrò nella distretta, ed essi barcolleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come la polvere, e la loro carne come gli escrementi. Né il loro argento né l'oro li potrà salvare. Nel giorno della collera del Signore, dal fuoco del suo zelo sarà divorata la terra. Infatti distruggerà, anzi sterminerà, tutti gli abitanti della terra. Raccoglietevi, radunatevi, gente spudorata, prima che siate dispersi lontano come pula che passa in un giorno, prima che venga su voi l'ardore dell'ira del Signore, prima che venga su voi il giorno dell'ira del Signore. Cercate il Signore, tutti voi umili del paese, che praticate i suoi decreti. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Sì, Gaza sarà un luogo abbandonato ed Ascalona una landa deserta. Asdod la cacceranno via sul mezzogiorno. Accaron sarà sradicata. Guai a voi, abitanti della zona marittima, nazione dei Cretei. Ecco la parola del Signore contro di voi. Io ti umilierò, terra dei Filistei. Ti priverò di ogni abitante. Sarai luogo di pascoli per i pastori, un luogo di recinti per il gregge. La zona marittima apparterrà al resto della casa di Giuda. Lungo il mare essi pascoleranno. Nelle case di Ascalona a sera riposeranno, perché il Signore loro Dio li visiterà e li ricondurrà dall'esilio. Ho udito l'oltraggio di Moab e i sarcasmi dei figli di Ammon con cui hanno oltraggiato il mio popolo. Si sono inorgogliti contro il loro territorio. Perciò, come io vivo, oracolo del Signore, Dio di Israele, Moab sarà come Sodoma e i figli di Ammon come Gomorra. Un campo di cardi e un mucchio di sale e una desolazione perpetua. Il resto del mio popolo li deprederà, il rimanente della mia nazione se ne impadronirà. Questa la loro sorte per il loro orgoglio, per l'oltraggio e perché si sono vantati contro il popolo del Signore degli eserciti. È apparso terribile il Signore sopra di loro. Certo sopprimerà tutti gli dèi della terra. Verranno ad adorarlo, ciascuno partendo dalla propria sede, tutte le isole delle nazioni. Anche voi, etiopi, sarete vittime della spada del Signore. Egli stenderà la sua mano verso il nord e abbatterà Assur. Farà di Ninive un luogo abbandonato, una terra arida come il deserto. Vi si accovacceranno le greggi, tutti gli animali della valle, anche il pellicano, anche il riccio, fra le sue sculture passeranno la notte. Il gufo manderà grida dalla finestra, il corvo sulla soglia, perché il suo cedro è stato spogliato. Questa è la città spensierata che troneggiava sicura, che pensava in cuor suo, io e non v'è nessun altro. Com'è diventata un deserto, un covile per gli animali. Tutti quelli che le passano vicino fischiettano e agitano la mano. Guai alla città ribelle e impura, alla città tiranna. Non ha mai dato ascolto all'invito, non ha mai accettato il richiamo. Nel Signore non ha posto fiducia, al suo Dio non si è avvicinata. I suoi principi dentro di lei sono leoni ruggenti. I suoi giudici, lupi alla sera, che non hanno sbranato nulla al mattino. I suoi profeti sono millantatori, uomini bugiardi. i suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge. Il Signore giusto è in mezzo a lei. Egli non commette iniquità. Al mattino egli promulga il suo decreto come la luce che non viene mai meno. Ma l'iniquo non conosce vergogna. Ho sterminato i popoli. Sono stati distrutti i loro pinnacoli. Ho reso deserto le loro vie. Non c'è nemmeno un passante. Sono state saccheggiate le loro città. Non c'è chi vi abiti. Io pensavo: tu mi temerai certamente, ti lascerai correggere. Non potranno cancellarsi dai suoi occhi tutte le visite che io le ho fatto. Ma che? Si sono affrettati a corrompere tutte le loro azioni. Perciò aspettatemi, oracolo del Signore, il giorno che mi leverò come accusatore. Sì, è mia decisione radunar le genti, convocare i regni, per riversare su di voi il mio sdegno, tutto l'ardore della mia ira. Sì, con il fuoco della mia gelosia consumerò tutta la terra. Sì, allora io darò alle genti labbra pure, perché tutti invochino il nome del Signore, perché lo servano spalla a spalla. Dalla sponda dei fiumi di Etiopia fino agli estremi recessi del settentrione si porteranno a me le offerte. In quel giorno non avrai più vergogna delle azioni commesse contro di me, perché allora io toglierò dal tuo seno i tuoi superbi orgogliosi e non continuerai più a pavoneggiarti sul monte mio santo. Io lascerò in te un popolo umile e misero. Cercherà rifugio nel nome del Signore il resto d'Israele. Non commetteranno più l'iniquità e non diranno più menzogne. Non si troverà più nella loro bocca una lingua bugiarda. Pascoleranno e riposeranno senza che alcuno li molesti. Giubila, figlia di Sion, rallegrati, Israele. Gioisci ed esulta di tutto cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha cancellato i decreti della tua condanna, ha sviato altrove il tuo nemico. Il Signore, re di Israele, è in mezzo a te. Non avrai più da temere la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non ti lasciar cadere le mani. Il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te. Egli è un guerriero che salva. Egli esulterà di gioia per te, ti rinnoverà per il suo amore, danzerà per te giubilando come nei giorni di festa. Ho stornato da te la sventura, ho tolto da te l'obbrobrio. Eccomi all'opera. Sterminerò tutti i tuoi oppressori. In quel giorno salverò chi zoppica e chi è sviato raccoglierò. Li renderò oggetto di lode e di fama in tutta la terra della loro onta. In quel tempo io sarò alla vostra testa. In quel tempo io vi farò riposare. Vi procurerò lode e fama in mezzo a tutti i popoli della terra. Quando compirò la vostra restaurazione davanti ai vostri occhi, dice il Signore.